Fate qualcosa per salvare la razza umana. Sì, sì, non c'è. Siamo dubbio. Tutti nelle vostre mani. Sì. Fate degli appelli, cercate di far curare amorevolmente gli omosessuali senza continuare a rompere i cocomeri con sta storia dei matrimoni, dell'adozione, dei diritti civili. Ci sono pochi soldi e questi vanno destinati alla continuazione della specie. Punto e basta. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Settembre 1993. E dunque, Forza Italia. Forza Italia. Forza Italia. Viva l'Italia, viva la libertà. La libertà è l'essenza dell'uomo. E Dio, creando l'uomo, l'ha voluto libero. Vai Parenzo! Forza Italia! Ma che c'hai? Sei malato? Che c'hai? Per essere liberi e abbiamo tutti un sogno dentro il cuore, esposito a San Vittore. Vi ricordate quello che scese in campo nel 1994 per battere la gioiosa macchina da guerra? Ero io. No, io, No, certo. Successe invece quel che sapete. Un estraneo alla politica, un certo Silvio Berlusconi, scese in campo. Sconfisse la gioiosa macchina da guerra della sinistra e in due mesi portò i moderati al governo. Ero io. Subito, anzi immediatamente, i PM e i giudici legati alla sinistra. Beh, straordinario il passaggio sulla via giudiziaria al socialismo. Al socialismo. Siamo al top. Però tutti quanti a prendere per il culo, adesso anche noi pigliamo per il culo, per carità. Tutti a prendere per il culo, perché credo. No, va benissimo prendere per il culo, eccetera, ma è ottimo, è straordinario, ovviamente Twitter, tutti scatenati a prendere per il culo i singoli passaggi, Dio, Forza Italia, la ripetizione. Però ogni volta uno prende per il culo, dice vabbè, le solite boiate, vent'anni, eccetera, poi zac! E poi per altri vent'anni ancora. Cioè, poi zac e arriva i voti. Cioè, questo pure bisogna sempre considerare quando uno piglia per il culo. Poi, per carità, siamo qua, ci divertiamo. Vabbè, fammi però sentire. Abbiamo tempo per discutere, perché abbiamo tutta la notte, perché stasera andiamo avanti fino a mezzanotte dopo questo evento. Ma chi te l'ha detto? Dire... Ma quando mai? Non è vero. Fosse uno speciale. No, aspetta, innocente, fammi sentire innocente prima di cosa. Vai. Innocente, innocente. Questo è bello, sto passaggio innocente. Voglio ripeterlo ancora con forza, io non ho commesso alcun reato, io non sono colpevole di alcunché, io sono innocente, io sono assolutamente innocente. Poi ci sono i messaggi politici, però, caro David, adesso a prendere per il culo, a mettere Forza Italia. Per esempio, sembra che dia per scontata la decadenza. Cioè, alla fine, tutti ad accapigliarci, il voto, la giunta, le cose, qui e su e sotto, e quello vota contro, eccetera. In realtà Berlusconi in questo messaggio lancia qualche messaggio. Il primo è, diciamo, non ne parla nemmeno, ma è chiaro che non vuole far cadere il governo. Ma questo era apparso già evidente nei giorni scorsi. Continuerà a far politica anche una volta decaduto, che ce lo dà per scontato. Appunto, dà per scontato il fatto che comunque... vede i numeri della giunta, vede i numeri. No, dire, ma in realtà tutti stiamo lì a pensare alla giunta, quello che è tutto inutile, tanto si sa, decade. Comunque, sentiamo. io sarò sempre con voi, sempre, al vostro fianco, decaduto o no. Si può far politica anche senza essere in Parlamento. Non è il seggio che fa un leader, ma è il consenso popolare, il vostro consenso. Quel consenso che non mi è mai mancato e che, ne sono sicuro, non mi mancherà neppure in futuro. Ma altro messaggio più serio, al di là delle prese per il culo, ed è questo, la questione della revisione della sentenza. Cioè, dice Berlusconi che alla fine in Europa, in Italia, presso le corti internazionali, Strasburgo, Lussemburgo, Copenaghen, Groenlandia, e basta. Ho capito, però uno dice: io fino alla fine mi batterò per la revisione. Questo, devo dire la verità, cioè, fa un po' ridere uno che si fa ricorso in tutti i tribunali possibili. Non c'è niente da ricorrere da nessuna parte. No, ho capito, però è il segnale. No, esiste anche questa possibilità. Lui dice: comunque mi batterò fino alla fine in ogni dove. Si illudono di essere riusciti ad estromettermi dalla vita politica con una sentenza che è politica, che è mostruosa, ma che potrebbe non essere definitiva, come invece vuol far credere la sinistra. Perché nei tempi giusti, nei tempi opportuni, mi batterò per ottenerne la revisione in Italia e in Europa. Vabbè, c'è tanto altro da farvi ascoltare. Siamo qui, 800 24 00 24. Non c'è solo il messaggio del Berlusca, che oggi certamente invade la scena politica. Io voglio far cantare questa canzone a ogni costo al dottore senatore Carlo Giovanardi. Buonasera. Buonasera, come va? Buonasera, cantiamo insieme l'inno di Forza Italia, senatore Giovanardi, su, dai. Hai sbagliato indirizzo, mi scusi, perché io non sono mai stato in Forza Italia e non aderirò neanche a Forza Italia. Non aderirà mai a Forza Italia. No, mai. Scusi, io rimango dove sono, nel Popolo della Libertà. Ma non ci sarà più il Popolo della Libertà? Non c'è più, assolutamente sì. Ma dove? Per esempio nei gruppi parlamentari, per vabbè, esempio ho capito, gruppi consigliari comunali. Se qualcuno vuole uscire e uscirà per costituire Forza Italia, uscirà dal gruppo parlamentare, e chi vuole rimanere nel PDL, però, io sono fra i cofondatori. Sì, ma non esisterà più. Quando ci sarà Forza Italia? Cioè, fra poco. Oggi Berlusconi ha annunciato che ci sarà Forza Italia, reclutamento. Nascerà Forza Italia, ci saranno persone che andranno in Forza Italia, e poi ci saranno quelli che rimarranno nel Popolo della Libertà. Ma solo lei, cioè, rimarrà nel Popolo della Libertà? Non esiste PDL. Abbiamo un comitato, un coordinamento su 30, su 30 hanno votato per rimanere nel PDL, uno si è astenuto. Vabbè, quindi, Modena, ma in giro per l'Italia, mi scusi, no, sto parlando una cosa seria. Sì, d'accordo. Perché Berlusconi c'è il capo del centrodestra, nessuno lo mette in discussione, però... Come c'è Fratelli, cioè, lei vuole fare un gruppo del PDL? Vuole fare un gruppo del PDL, per esempio, se dovesse essere... Non devo fare un gruppo, cioè, non può scomparire giuridicamente il gruppo del PDL, mi scusi, anche se rimanessi solo. Dai, su, il gruppo del PDL al Senato rimane. Ma sì, d'accordo, no, ma... Noi siamo stati eletti nel PDL. Vabbè, ma uno, noi a certo siamo punto... membri del gruppo del PDL, ma non è mica una cosa così stravagante, semplicemente. Ma perché non si vuole iscrivere a Forza Italia, lei, scusi? Aveva sentito Berlusconi, si è commosso oggi con Berlusconi, scusi, o no? Si è commosso? Io, quando è nata Forza Italia, facevo già il parlamentare. Però Giovanardi, scusi, ero stato eletto consigliere regionale comunale con la preferenza. Quindi io sono sempre stato nell'area democratica cristiana, continuo a starci, sì, nel centrodestra. Riconosco. Vabbè, d'accordo, però scusi, ma non va di Forza Italia. Signor Giovanardi, scusi un attimo, io si è commosso innanzitutto a sentire Berlusconi. Scusi, perché non va in Forza Italia? Ma io che c'entro? Mica faccio parlare. Una bella domanda questa, però. Ma che c'entra? Lei è il suo leader, è Berlusconi, voleva fare pure ragione. Io sono cofondatore insieme ad altri di un partito popolare democratico. Sì, vabbè, d'accordo, però lasciamo, però al di là, ma di ispirazione cristiana, ma lasci perdere queste cose, ma non faccio parte del partito popolare europeo, ma sì, d'accordo, le difendo lì. Giovanardi, il PDL fra poco non esisterà più, esisterà una cosa che si chiama Forza Italia. Scusi, ma lo dice, dice Berlusconi, l'ho detto io, Berlusconi, il suo leader. Cruciani, il sono suo... tante volte che ci siamo trovati in trasmissione, lei diceva una cosa e un'altra, poi col tempo ha avuto ragione io e lei ha avuto torto. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Non commette in questa maniera. Si ricorda quando parlava della Libia? No, ma scusi, lasci... Per esempio, vabbè, lasciamo tutti erano presi la furore bellicista Giovanardi, e io spiegavo che la cosa della Libia era una trappola. Allora, io voglio capire una cosa, non l'ha emozionata Berlusconi adesso con questo messaggio? Io non l'ho ancora sentito Berlusconi, perché... Vai, più o meno, non l'ha fatto, è l'unico, no, ho visto sulle agenzie qualche, no, non l'ha visto, lei non ha visto il messaggio, non ha visto il messaggio, il video messaggio, no, di Berlusconi, non l'ho visto, anche perché io devo andare fra poco, non è stasera, non gliene frega niente, no, c'ho la giunta, ma è inutile, ha detto, ha dato per scontato la decadenza Berlusconi, ormai è tutto... Che io vado in giunta a parlare di una mascalzonata, e qual è? quella di votare la decadenza, è una vera e propria mascalzonata. Ma perché è una mascalzonata? Una mascalzonata. Ma lei addirittura ha parlato di processi staliniani. No, penso, io ho parlato di mascalzonate, scusi. Ma anche, anche spiegato. Ma anche di processi staliniani ha parlato. Scusi, lo sa che Berlusconi in marzo è stato assolto dalla Cassazione con sentenza irrevocabile? Dove? Giudicato. Dove? Berlusconi in marzo è stato assolto dalla Cassazione, sì, terza sezione penale, vabbè, sentenza allora passata in giudicato per la media, per i diritti Mediaset. Ma che e come ho letto in commissione, abbiamo acquisito gli atti. Ma che c'entra? Hanno confermato che non ci sono, non c'erano neanche gli elementi necessari. Ma per poi c'è stato giudizio. Un altro processo, c'è stato no, un altro processo. No, sì, ma ce n'è stato un altro dopo. No, c'è infatti c'è anche quella del 2012, che la Cassazione, seconda sezione. Giovanardi, c'è una, c'è una, c'è una condanna definitiva qui. Qui c'è una condanna definitiva e la decadenza. Ma no, sono tre sentenze. No, due, però, che no, lo assolvono no, per quelle fatte internazionali definitive passate in giudicato. Va bene, d'accordo. E poi il dottor Esposito che lo condanna. No, ma vede, lei non sarà preoccupato, ma io se Cruciani fosse accusato di essere un truffatore e poi due volte venisse assolto Cruciani in Cassazione, sì, con sentenza definitiva passata in giudicato, che dimostra che non lo è. Vabbè, però queste sono giudice. Vabbè, ma queste sono cose della, sono cose della difesa, Giovanardi, sono cose della difesa. Perché è un processo staliniano questo qua? Me lo spiega? Perché in un paese normale. No, ma lei è sicuro staliniano? Viene assolto. No, ma staliniano, lei è sicuro staliniano? Quando uno viene assolto per un fatto, non può essere processato, vabbè, tante volte per lo stesso fatto finché non trova un giudice. Lei però non condanna. Fa l'avvocato, lei non fa l'avvocato. Ma faccio l'avvocato, faccio fa il cittadino. Fa un altro mestiere, però no, faccio il cittadino, però sono preoccupato che ci siano queste forzature della Costituzione, della retroattività, del giudice naturale, del nebisinismo. Vabbè, quello lasci fare a Longo e a Ghedini il loro lavoro. Ma io faccio il politico. Lei fa il politico. Scusi, e parla di processo staliniano, di processo, i processi staliniani ammazzavano la gente, Con la legge Severino è una mascalzonata e chi si assumerà questa responsabilità ne risponde davanti alla storia. Ma vogliono ammazzare, perché quando si rileggeranno queste vicende. Ma chi sono i processi staliniani? Chi ha fatto i processi staliniani? Scusi, chi l'ha fatti? Ma per esempio Leone, quando ha spiegato no, alla Costituente che... Ma che Leone? I processi staliniani, chi è che li fa oggi? Quelle erano costruiti sulla retroattività della norma, esattamente come quello nazista. Stalin però, come invece nazista? Invece nel nostro ordinamento non cioè, esiste la retroattività I giudici di Berlusconi sono giudici nazisti? Viene applicato... No, i giudici di Berlusconi, dottor Esposito, ha detto esattamente il rovescio. Cioè? Quello che hanno detto due sentenze della Cassazione passate... Dunque, che cos'è? È uguale a un giudice nazista? Non ho capito. Che... non ci sono per i diritti medias neanche gli elementi per il rinvio. D'accordo, ma lasci perdere adesso questa cosa. È, io lascio, è no, come un giudice nazista. Prima di far decadere per indegnità morale, perché questa è l'accusa, per indignità no, morale. No, indegnità morale, perché la legge Severino, dice che uno decade se viene condannato a una pena oltre 2 anni, per questo, no, per indegnità morale. Scusi, ma che vuol dire? Cruciani, se lei ha commesso un fatto 8 anni fa, e adesso le dicono ma lei l'ha votata reato, la Severino? Lei l'ha votata? Le applicano 10 anni dopo. Lei l'ha votata? Un fatto di 10 anni prima. Lei l'ha votata? Ma diritto sovietico nazista. Senatore, noi come diritto sovietico nazista? Abbiamo scritto, fortunatamente, un principio sacro. Nessuno può essere punito. Giovanardi, lei l'ha votata o no? Lei l'ha votata o no? Che cosa? La Severino, sì. Nessuno l'ha votata. Come no? La Severino, lei l'ha votata o no? Aridaia con la legge delega. Aridaia con la legge delega. Nessun deputato ma senatore no? ha votato come il no? decreto Severino, perché i decreti legislativi non si lei votano. L'ha approvato o no la legge della no. legge? Sì, come non l'ha approvata? Lei l'ha votata la Severino su. Per altre ragioni, ma nessun deputato e senatore ha lei votato l'ha votato il o no? legislativo. No. Dunque, forza Italia. Forza Italia. Forza Italia. Viva l'Italia, viva la libertà. La libertà è l'essenza dell'uomo. E Dio, creando l'uomo, l'ha voluto libero. Siamo al top qui, siamo al top, senatore Giovanardi. Nemmeno questo riferimento a Dio le è piaciuto. Io le ho messo apposta questo riferimento a Dio, senatore Giovanardi, no? Cioè, ma ce l'ha messo Berlusconi? Beh, no, ma certo che ce l'ha messo. Beh, in che senso ce l'ha messo Berlusconi, scusi? Beh, nel suo intervento. No, sì, d'accordo, io l'ho messo io a lei per farglielo sentire, ho detto. Ah, io l'ho messo io a lei. Questo pezzo. Beh, c'era questo Berlusconi. è un personaggio di grande statura. Del resto, lui che cosa ha detto? Una cosa semplice: non continuare a fare politica, sì, come lo faceva Mandela, come l'hanno fatto tanti. Come lo faceva Mandela? Perché lei lo paragona a Mandela? Ma ho appena sentito per televisione una vostra collega che faceva riferimenti storici di persone che hanno continuato ad avere funzione di leadership, anche se. Ma c'era l'apartheid in Sudafrica. Aspetta. Mandela era stato legalmente condannato sulla base delle leggi del Sudafrica. Sì. Ma anche Aveli in Cecoslovacchia era stato nominato. Beh, ma le leggi del Sudafrica non erano quelle dell'Italia di adesso, quelle dell'apartheid, però. Scusi, allora, signor Giovanardi. Io le ribadisco che, avendo letto le sentenze di assoluzione della Cassazione, ritengo la sentenza del dottor Esposito, quello che adesso è sotto procedimento disciplinare, quello che parla, quello che in più occasione ha dimostrato animosità verso Berlusconi, una sentenza totalmente quello che lei ha detto essere un giudice di stampo nazista, in pratica. No, io non l'ho detto, questo l'ha detto lei più o meno. No, questo l'ha detto, no, questo l'ha detto, no, scusi, questo l'ha detto lei, non l'ho detto io, sia ben chiaro, ne risponderà se l'ho detto no, io non l'ho detto, no, io non l'ho detto, quindi vabbè, comunque allora ma assolutamente lei ha parlato no. di diritto sovietico nazista, scusi un attimo, no, io ho detto che l'applicazione della retroattività di una sanzione era tipico del diritto sovietico e nazista. Ah, la retroattività nell'Italia democratica. Ma l'avete approvata voi la legge? È un'aberrazione, non la, io non l'ho mai approvata. Ma come non l'ha mai approvata? Continuate a fare disinformazione. Ma tutti, ma nessun deputato e senatore ha mai votato la retroattività. Il decreto legislativo, certo, è comparso nel decreto legislativo. Scusi, che ha scritto il governo, come no? Ho capito, ma facevate parte del governo, facevate parte del governo. Mi piace fare un passaggio in più. Ahimè, non mi piace, però Berlusconi ha ritirato il passaporto, andrà agli arresti domiciliari o ai servizi sociali, e quando la Corte d'Appello avrà stabilito la decadenza dei pubblici uffici, decadrà anche dei pubblici uffici. Allora cos'è questa corsa forsennata per farlo decadere in base a Severino, per andare in aula col voto segreto? Scusi, ma torniamo a Mandela, che similitudini trova con Mandela lei? Scusi, cosa gli vogliamo mettere le dita negli occhi, vogliamo umiliarlo? Vogliamo fare come la Pezzolvani, dire che deve decadere perché è indegno moralmente e quindi inquina con la sua presenza in Parlamento? Vabbè, ma questo è un altro discorso. Io volevo dire, questo è il motivo per cui decade. Qual è il paragone con Mandela che si può fare? Per cui decade in base alla severità. E io mi ribello a considerare Berlusconi un delinquente, un pregiudicato. Ma l'avete approvata voi? L'avete approvata voi la legge? L'avete approvata voi? L'avete approvata voi? L'avete approvata voi? Sì, l'avete approvata voi. Ma non è vero, l'avete approvata voi la legge? Totalmente falsa. Nessuno sapeva che c'era nessun senatore ha votato il decreto legislativo sul quale è apparso all'improvviso la decadenza. È all'improvviso la decadenza. Dai, su. Sono stati depositati da parte illustri costituzionalisti che spiegano questo, ma devi dirlo anche alla gente. Ma abbiamo se continuano a raccontare delle balle, continuano a raccontare delle balle, sono sempre qual balle. È la storia, scusi un attimo, qual è la similitudine con Mandela che non l'ho capita? No, ho detto che una persona che secondo me ingiustamente patisce una pena e la patisce, perché noi come Mandela questa cosa può sia Mandela che Havel, Havel, Mandela sì, appunto, condannati sulla base illegittimi. Ma Havel, c'era il comunismo! Ma c'era il comunismo! Havel, c'era il comunismo! Io considero dei perseguitati, come considero Berlusconi in questa vicenda di accanimento, un perseguitato. Sì. D'accordo, dunque, da questo punto di vista è uguale ad Havel e Mandela, ma c'era il comunismo e l'apartheid! C'era il comunismo e l'apartheid! Io questo loro sistemi politici divento delle condanne ingiuste. Io considero questa condanna ingiusta. Ma è d'accordo. Ma la Cassazione, andatevi a leggere le sentenze di Cassazione. Sì, ho capito, le sentenze precedenti. I magistrati di Cassazione spiegano che lui non poteva essere né materialmente né moralmente. Ma allora lei che pensa di Esposito? Mi dica la verità, cosa pensa di Esposito? Che è un criminale, un delinquente? Cosa sinceramente, dentro lei di Esposito, cosa pensa? Che Esposito abbia fatto una roba che un magistrato è lunare, che dopo aver emesso una sentenza, invece di aspettare le motivazioni, va a dare interviste ai giornalisti, ma in cui parla di kille, ille in dialetto, ma non si capisce bene, facendo una confusione terrificante. Se quello è la figura del magistrato, che con la sua... Ma va preso a calci in culo o no? Destabilizza il paese, perché destabilizza il paese. Lo metti insieme a quelli dell'Ilva, lo metti insieme a Mingroghe, lo metti insieme a Di Pietro, lo metti insieme a... Come a quelli dell'Ilva? Che c'entra quelli... Ah, i magistrati dell'Ilva, cioè Esposito ha destabilizzato il paese, secondo lei? Certamente sì, ha destabilizzato. Per quasi da arrestarlo, dice, quasi sarebbe da arrestare. Sarebbe da parte della sezione feriale ed è stata un'altra forzatura. Ma sarebbe da arrestare quasi. Dunque, se uno destabilizza il paese, è quasi da arrestare. No, ma si può criticare. criticare. Può criticare, cioè, non posso criticare il dottor Esposito. Senta, ma il PDL esisterà ancora, perché ci sarà un gruppo, comunque ci sarà un gruppo parlamentare PDL, secondo lei? Anche se rimarrà un solo senatore. È un solo senatore, e lei si attacca al gruppo misto. Ma il PDL esisterà legalmente, non ma so di Ma questo è ad adiuvandum, perché ad adiuvandum. Centrodestra non vincerà. Sempre ad adiuvandum. Non vincerà senza il PDL. Con senza parole, guarda. Se non si articolerà, sicuramente. Dobbiamo dare il giornale radio. Giovanardi. Io me ne vado, vi saluto, perché un abbraccio fortissimo. Andate, è tutto inutile, perché Berlusconi ha detto che praticamente è decaduto. Dunque vada lei, faccia la battaglia contro Mascalzone, ma tanto Berlusconi stesso ha detto. Per decadere prima ci vogliono delle procedure. Ma ha dato per scontato questo. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. È ancora in casa, Sipo. Ma peggio è. E certo che siamo ancora qua, caro senatore Dell'Utri. Siamo qui e soprattutto, beh, io credo che il cuore del senatore Dell'Utri si sia oggi emozionato nel sentire il meraviglioso ritorno di Forza Italia, caro Parenzo. Probabile. Senti, mettetemi io lì, no, subito. Ma togli una curiosità, voglio, prima. Dimmi, caro. Quel signore che abbiamo uscito dall'inizio, era un signor attore. Giovanardi, che ha paragonato Berlusconi a Mandela e a Havel. Ecco, no, ma era un'imitazione, cioè era una gag, un'imitazione. Signor Havel. Io divento pazzo, perché avete... Ah sì, violini, scusate. Perché io dico una cosa, uno può dire tutto, no, che i magistrati ce l'hanno con Berlusconi, tutto bene, tutto, però i paragoni con Mandela e Havel. Havel, Mandela e Havel, no, dai su, via, e dai e vai, e senti, vai. Senti questa, il messaggio di Berlusconi è commovente, sentito, profondo, patriottico. La Biancofiore sarà questa figura. Lui è l'Italia migliore, vabbè. Siamo orgogliosi di essergli accanto dal 94, lo saremo ancora di più oggi in questo momento di difficoltà oggettiva, ma ha detto bene il presidente, non è un seggio a fare un leader, e la sua forza è sempre stata solo ed esclusivamente il popolo, il consenso che la gente non gli ha mai fatto mancare. Bene il ritorno a Forza Italia. Forza Italia è l'Italia, quella berlusconiana, quella libera, quella che produce, quella che ama, quella che non odia. Grazie presidente, grazie ancora una volta di esistere. E mi viene in mente cosa quando sento questo grazie di esistere? Cosa mi viene in mente, caro David? Cosa mi viene in mente? La Michela White Flower. No, sì, è la Biancofiore, ovviamente hai centrato subito. Mi viene in mente una canzone, grazie di esistere. Aspetta, qual è? Grazie di esistere. Ah, beh, sì, certo. Di esistere. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Berlusconi attacca la magistratura ma non il governo. Forza Italia dice nel videomessaggio: è l'ultima chiamata prima della catastrofe. Italiani, ribellatevi con me. Decadenza di Berlusconi da parlamentare. Stasera la giunta vota su pregiudiziali e relazione a Augello. Il presidente del Senato Grasso, votazione non decisiva. Scontro sull'IVA, il PDL Letta smentisce, onori gli impegni. Fassina a rivedere l'abolizione dell'IMU. Grillo, Italia commissariata entro l'anno. Maggioranza divisa alla Camera sulla legge sull'omofobia, i 5 Stelle accusano la presidente Boldrini, non è imparziale, nuovo rinvio sul voto. Al Giglio l'attesa dei parenti dei due dispersi della Concordia, guerra tra porti per la demolizione del relitto, il ministro Orlando, Piombino, destinazione ideale. Si scava a Casal di Principe alla ricerca di rifiuti tossici dopo le rivelazioni di alcuni pentiti, a rischio una falda d'acqua, la rabbia degli abitanti. Il ministro Zanonato ipotizza di allargare il commissariamento Ilva all'intero gruppo Riva e dice non possiamo tenere ferma l'azienda per un mese. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Beh, ormai siamo alla rubrica, alla rubrica su Brunetta. Bisognerà inventarsi qualcosa, una rubrichetta sul signor Brunetta. Sigla molto semplice, basta mettere ripetizioni cretino, fate isolare quello come sigletta. Ma no, non l'ha mai detto cretino, com'è che dice? Sì. Ma che mondo è Allora, questa volta lo show è andato in onda su Sky TG24. Brunetta versus una giornalista, credo si chiami Baldini, una conduttrice peraltro molto bella, E allora, subito a commentare queste dichiarazioni di Sacco Manni, che parla di un aumento IVA inevitabile, però PDL e PD sono in pressing su Letta perché cercano una smentita a questa notizia. Che cosa succederebbe in quel caso? Le posso fare io una domanda? Mi può leggere le dichiarazioni di Sacco Manni, per favore? Stiamo discutendo ora, se iniciamo subito a fare la polemica. Sto facendo una domanda, siccome queste dichiarazioni di Sacco Manni non ci sono, voi avete basato tutto questo servizio su dichiarazioni di Sacco Manni che non esistono. Questo, ma che mondo? Senta, in maniera molto seria, superiamo questo ostacolo. Io, guardi, io sono serissimo, le sto chiedendo. Io sono serissimo, le sto chiedendo gentilmente di leggermi la fonte dell'affermazione di Sacco Manni secondo cui l'aumento dell'IVA sarebbe inevitabile. Io sono serissimo, cercate di essere serissimi anche voi, per favore. Benissimo, sicuramente glielo prometto e riporteremo no, tutto subito, quello che... No, subito, è subito, perché avete dato una notizia allora, che io contesto. Fassina dice non abbiamo i soldi, li prendiamo dall'IMU e così via, benissimo, però voi non potete fare un servizio sulle dichiarazioni di Sacco Manni che non esistono, questo non è giornalismo. Beh, benissimo, prendiamo atto, le ripeto, noi siamo sempre e pronti chiedete anche magari un po' scusa, magari chiedete anche un po' scusa. Siamo pronti a metterci in discussione. Solo un po'. Assolutamente sì, l'umiltà mettendo, è sempre la prima cosa, onorevole. Voi state mettendo in apprensione un intero paese dicendo che il ministro Sacco Manni avrebbe detto che l'aumento dell'IVA è inevitabile quando affermazione non allora, parliamo, io parliamo... la contesto su questo. Beh, siamo sempre al top, siamo sempre al top, però devo dire che in questo caso io non so, non me ne frega niente se l'ha detto Sacco Manni sul serio, se c'è una dichiarazione subito, o no. Subito. No, subito. Cretino! Che mi grazie tutto! Cosa ti devo fare? Un po' di ascoltatori, dai, 800240024. Vincenzo da Foggia. Non c'è Vincenzo d'Arezzo. Salve, buonasera. Dica. Sì, no, volevo sapere una cosa, un'informazione, se me la puoi dare. Noi non diamo informazioni. No, perché ho visto che lei ha cambiato parecchio atteggiamento. Perché ci ha preso? Per cosa? No, perché ho visto ieri ha riconosciuto. Io ieri ho riconosciuto. Tutti in pompa magna dicevano che Letta per via della Costa Concordia, gli italiani di qui. Lei ha riconosciuto che invece non è un italiano, ma è un sudafricano. Vabbè, non è che c'è solo il sudafricano, quello è il capo. Tutto. Ho capito, ma quello è il capo del team. Poi ci sono molti italiani. No, ma mi è piaciuto perché lei è stato come una zanzara, puntuale. Vabbè, guarda, a me non me ne frega niente. Giovanardi l'ha stretto e ha detto: ma lei l'ha votata questa legge Severino? Lei l'ha votata. Finalmente Cruciani a me. Vabbè, senta, Vincenzo, a me non me ne frega niente dei complimenti. Andiamo avanti, dai, forza. Che vuole dire? Niente, poi le bizze di Berlusconi. La sanità minestra riscaldata. Gli italiani sono stufi. Vabbè, gli italiani sono stufi, non è che lo decide lei. Lei dice niente. Io sono stufo, Vincenzo, io sono stufo. Ma no, gli italiani sono stufi. Adesso sì, può darsi. No, gli italiani sono stufi. Gli italiani veri, quelli che lavorano dalla mattina alla sera. Ho capito, ma il problema è un altro. No, poi gli italiani, se sono stufi o no. Se sono stufi o no, poi lo decidono. Che si alzano la mattina lo decidono alle urne. Fanno viaggi chilometri, si danno da fare. Perché quelli non votano Berlusconi. Perché quelli non votano Berlusconi. Quelli non votano Berlusconi. Berlusconi, secondo lei? La vera popolazione. No, scusi italiana, un attimo, Vincenzo. Non quella che sono lì. Vincenzo. I politici che sono lì, che mi sento dire Brunetta che va a chiedere i soldi per l'IMU. In banca. Senta, Vincenzo. Ma non è che quelli che votano Berlusconi non lavorano, Cioè, abbia pazienza. Anche quelli che si alzano alle 6 di mattina e si fanno un mazzo così, magari votano per Berlusconi. È facile pagare la gente per andare da Napoli, andare a Roma a fare la manifestazione. Vabbè, ma che c'entra questo? Pagagli 50 Vincenzo, euro. Andiamo a Pisa, Francesco, grazie, arrivederci. Questo, Francesco, allora. Pisa, dimmi, Parenzo. No, ma non riesco a capire, perché poi tu fai passare sempre tutto, che è tutto normale, che non ti interessa. Cosa? Che va bene. Ma quando il Cavaliere dice che la gente deve scendere in campo contro la magistratura, ma di che contro cosa la giustizia? Parla? Vabbè, ma è normale, ma lo dice da 20 anni, di che ti stupisci? Questa è la parte più scontata del discorso. E ma che cosa vuol dire? E cosa deve fare? ma è una mobilitazione, ma è una cosa politica. Una mobilitazione. Vabbè, ma sì, ma è normale, un uomo politico ha sempre detto questo da vent'anni. Ma è da vent'anni che dice la stessa cosa, di che ti stupisci? Ma i tanti carcerati che ci stanno ascoltando in questo momento. Mamma mia, che retorica inutile. Condannati in Cassazione, vabbè, condannati. Eccola qua, la cazzata delle 19:27. Francesco, ma voi non lo pagate voi per fare la trasmissione. Ogni tanto lo paghiamo. Francesco da Pisa. Fammi sentire Francesco da Pisa. Eccomi. No, beh, che Berlusconi, dopo diciamo che dura da 20 anni, venga condannato ora, dopo che ha governato, salvo le due interruzioni, da una Cassazione, voglio dire, mi sembra veramente che in questa nostra giustizia funziona veramente male. No, ma non ho capito bene, scusi, che cos'è che funziona male? Voglio dire questo. Che funzioni male in assoluto, possiamo essere... Un capo di me, uno che ha una responsabilità come Berlusconi, viene condannato, come devo dire, giudicato con questa lentezza. Vabbè, questa è, però, è una cosa... Vabbè, Francesco, dopo andiamo avanti, poi... Ecco, poi volevo dire, anche da parte vostra, no? Quando voi fate questo tipo di trasmissione che è molto simpatica, sì, allora? E fate della satira, dell'ironia, dunque? Anche, mi piacerebbe che voi foste anche un pochino più propositivi, anche più propositivi. Aggressivi. No, non siamo propositivi. No, poi vi dico perché. Un signor Brunetta, a cui voi avete dato un tanto spazio, sia stasera che anche ieri sera... Ma veramente l'abbiamo preso per il culo, comunque. Vabbè, poi... No, non avete preso per culo. Voi dovevate dire, secondo me, dire che il signor Brunetta deve pagare l'IMU, perché il signor Brunetta, anche se c'ha un rudere o una casa dirocata, prende 100.000 euro come minimo di stipendio. Quindi o è sbagliata la legge sull'IMU. Va bene, Francesco, grazie. Vincenzo da Foggia, grazie Vincenzo. Buonasera a tutti. Senti, volevo semplicemente premettere innanzitutto che rientro nel 99% degli italiani che afferma di non averlo mai votato. Lei da dove ci chiama? Da un sepolcro? Foggia, da sotto le caverne? Dov'è? Che c'ha? L'auricolare? Cos'ha? No, col telefono. Sì, ma che c'ha? Dove si trova? Dov'è? C'ha in viva voce? Cos'ha? No, appena chiuso l'ufficio. Vabbè, Vincenzo, allora, forza. Ok. Allora io volevo fare semplicemente una riflessione. No, naturalmente... No, una riflessione... No. Perché Forza Italia non è un partito, non è una parte, ma è un'idea, un progetto nazionale che unisce tutti. Perché Forza Italia è l'Italia delle donne e degli uomini che amano la libertà e che vogliono restare liberi. Perché Forza Italia è la vittoria dell'amore sull'invidia e sull'odio. Perché Forza Italia difende i valori della nostra tradizione cristiana, il valore della vita, della famiglia, della solidarietà, della tolleranza verso tutti, a cominciare dagli avversari. Perché Forza Italia sa bene che lo Stato deve essere al servizio dei cittadini e non invece i cittadini al servizio dello Stato. Perché Forza Italia è l'ultima chiamata prima della catastrofe. Beh, adesso, che Forza Italia sia l'ultima chiamata prima della catastrofe, per fortuna, spero non sia così, ma non per niente, ma uno può anche iscriversi, per carità, però insomma non è che o c'è Forza Italia o c'è la catastrofe, però è un messaggio elettorale. A me però cosa è piaciuto di più di questo messaggio di Berlusconi? Ma è di oggi questo, scusa? No, ti ho detto settembre 93. Settembre 93, 20 anni fa. Settembre 93, è stato registrato il 20 settembre 93. Ah, ecco, appunto, certo. Capito? Beh, sono innocente, sono innocente, sono innocente, non è male, però veniva dal cuore quello là. Voglio ripeterlo ancora con forza: io non ho commesso alcun reato, io non sono colpevole di alcunché, io sono innocente, io sono assolutamente innocente. Gerani, mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Questa storia del video di Berlusconi ci ha rotto i coglioni. Siamo qui 800 24 00 24, Manuela da Cuneo, buonasera Manuela. Buonasera. Dica. Per amor di Dio le dico che la sua trasmissione mi piace tanto, lei mi è enormemente simpatico. Va bene, via, via, via, avanti, avanti. Io però le porgo l'altra guancia, perché io sono proprio una berlusconiana, dura e pura. Succede nella vita. Fine, e anche se ci prendete in giro, non importa. Sinceramente sentire le parole del 93 ti riempiono il cuore, tutto lì. Vabbè. Lo capisco che non è facile da capire. Se le piace così. Se le piace, no, così. Non è che le piace così. Il discorso è che un conto è essere innamorati del Berlusconi politico. Ma lei è innamorata, Manuela, però dica la verità. Lei è innamorata. Ma lei è innamorata, ma lo dica fino in fondo, è innamorata, ma non c'è niente di più. E avere dei dubbi sulla persona, e su questo nessuno lo si può nascondere. Ma lei è innamorata, sì o no? Del Berlusconi politico? No, di Berlusconi in generale. No, quello no. Però delle idee di Berlusconi sicuramente sì. E c'è una grande parte di italiani che ci crede, anche perché non c'è nessun altro che le dice determinate cose. Grazie. Quindi, Manuela. Domenico da Milano, buonasera. Ciao Cruciani. Ciao, ciao. Volevo dire al signor Vincenzo che ha chiamato prima, che anche io stamattina alle 8 mi sono alzato e sto tornando a casa a quest'ora e ho votato Berlusconi fino all'anno scorso. Adesso fanno tutti schifo, Parenzo. Ti racconto una cosa seria, Parenzo. Ma in che senso? Ti abbasso un attimo l'audio, però è una cosa. Io un mese fa ho spedito la mia famiglia in Brasile, mia moglie è brasiliana, e tra 2-3 anni ci trasferiamo tutti là. Vabbè, allora che c'entra? Sai cosa c'entra questo? Che questo paese di merda, e dite a Parenzo di non sorridere perché c'è poco da ridere, io ho due bambine che vedo due volte l'anno. Vabbè, allora? Mi costringe come imprenditori di andare fuori dai coglioni, perché questi stronzi, tutti, a partire da Berlusconi a finire da Bersani e tutta sta gente, ci ha mandato alla deriva, Cruciani, ci ha mandato alla deriva. Ma lei che mestiere fa, scusi? 12 ore al giorno, Cruciani. E vivo lavorando per pagare le spese e lo stipendio ai miei dipendenti, Cruciani. Vabbè, ma è normale questo, non è una cosa strana lavorare. E non mi sparo in bocca e non mi impicco. Ma perché si dovrebbe impiccare, scusi? Ma perché si dovrebbe impiccare? Perché si dovrebbe sparare in bocca? Perché io lavoro non per guadagnare, Cruciani, io lavoro per pagare lo stipendio ai miei. Ma lei sta parlando delle tasse, dei problemi delle tasse? Di tutto. Io a fine mese, Cruciani, prendo dal mio conto corrente i soldi per fare la spesa, i soldi che ho guadagnati anni fa, tutto quello che guadagno pago le tasse, pago gli stipendi e vado fuori da coglioni da questo paese. Io tra 2-3 anni me ne vado fuori da coglioni. E vabbè, Cruciani, voi questo lo dovete dire. Ma che diciamo? Perché lo sta dicendo lei che va fuori dai coglioni? Io vado fuori a noi giovani a calci in culo. Scusi, quanti anni ha lei? Scusi, io ho 40 anni, lavoro da 18, sono un imprenditore, avevo un'azienda con 30 persone. Ok, oggi sono di meno. Lei dice nessuno è in grado in Italia, io non so cosa faccia lei, che problemi ha. Io immagino un'azienda immobiliare. Immagino il problema che hanno tutti gli imprenditori. Cruciani, scusami. C'è stato un mio cliente che per 10.000 euro di fido mi ha fatto chiudere bottega. Nessuno parla di queste cose. Lei sta dicendo cosa? Che nessun politico italiano è in grado di risolvere questi problemi. Cruciani, a me fanno schifo tutti. Va in galera, non me ne fotte niente. Ma ho capito, a me che Renzi faccia il Garibaldi della situazione, non me ne fotte niente. A me che le banche hanno i soldi a Bruxelles e non li danno agli italiani perché loro vogliono il 7%. Va bene, adesso la retorica delle banche, eccetera. No, Cruciani, è quello, perché se io vendo case, ok, e oggi un giovane non ha la possibilità di avere un mutuo, una famiglia, nessuno, oppure un artigiano che per 10.000 euro di fido gli fanno chiudere bottega. Questi sono i problemi, Cruciani. Va bene, grazie Domenico. Lei dice nessun politico. Vada fuori dai coglioni, cosa vuole che le dico? Che le dica Domenico? Ha deciso di andare fuori dai coglioni, non è che la posso trattenere. Grazie. Certo. Domenico, grazie. Eccoci qui, è con noi, caro Parenzo, un tuo concittadino nel giorno del messaggio di Berlusconi, uno dei suoi avvocati di punta, nonché deputato, credo al Senato. Dove sta, senatore? Alla Camera. Alla Camera, l'avvocato Longo, alla Camera. Avvocato, buonasera. Buonasera a lei. Come sta? Come sta? Ben ritrovato. Molto bene, voi come state? Beh, combattiamo. Sempre armato? Anche Parenzo sta bene? Parenzo sta bene, sì, abbastanza bene. Lei gira sempre armato, onorevole? Ma basta questa storia delle armi, abbiamo già dato questa armi storia. In pugno. Abbiamo già dato, dai, su, perché devi insistere sempre sulle stesse cose. Sì, perché è fanciullo. È fanciullo. Avvocato, guardi, io le dico subito una cosa, lei deve essere uno dei nostri primi ospiti quando faremo una trasmissione televisiva. Non so quando la faremo questa trasmissione televisiva, sembra che la faremo, però mi deve promettere che sarà uno dei primi. Lei raramente va in televisione, però ci deve promettere che con sarà con la pistola, però. No, deve la dire. Pistola non c'entra niente, non può portare perché lo arresterebbero. Posso avere questa promessa da parte sua? Sì. Cercherò di esserci. Cercherà di esserci. Bene. Mai dare certezze. La data non potrà coincidere con i miei impegni. Impegni, no, certo, non c'è dubbio. Senta, a proposito, ma secondo lei arriveranno le dimissioni da senatore di Berlusconi oppure non ci sarà mai una mossa del genere? Io non credo che darà le dimissioni, però la grande capacità politica istituzionale di Berlusconi potrebbe suggerirgli una soluzione diversa da quella che io ho appena adesso prospettato. Per il momento non mi sembra che ci sia nessuna prospettiva in questo senso. Beh, però lei fa capire che per Berlusconi, per l'uomo Berlusconi, avere un voto negativo da parte dell'Aula del Senato non è forse meglio di mettersi prima? Per il Berlusconi, come ha detto anche nel messaggio, avere un voto negativo da una parte del Senato può essere abbastanza indifferente. Gli ha detto, credo giustamente, che quello che gli interessa è il consenso degli elettori. Ma lei vede questa possibilità? Cioè, dovesse consigliare Berlusconi su questo punto, sulle dimissioni da Senato, gli direbbe di dimettersi o no? Io ho già consigliato ampiamente Berlusconi su quello che pensavo io che lui dovesse fare. Non glielo dico non glielo posso dire né a lei né a Parenzo, che mi perdonerà. Sì, la perdoneremo anche parte, se... Sì, fa parte della riservatezza dell'attività sia professionale e anche della politica. Comunque se... Ma potrebbero arrivare queste dimissioni prima di metà ottobre? Cioè, se lei dovesse scommettere oggi su Berlusconi ancora al Senato dopo la metà di ottobre, insomma alla fine di quest'anno, scommetterebbe o no? In che senso? Se viene dichiarato decaduto al Senato, viene dichiarato decaduto molto presto. No, appunto, d'accordo, però insomma, voglio dire, ormai la cosa è decisa, cioè non c'è possibilità di scamparla da questo punto di vista, cioè di rimanere al Senato. Ma guardi, nulla è sempre deciso quando si tratta di votazioni sulle singole persone che vengono fatte normalmente e saranno fatte anche questa volta in maniera segreta, come previsto dal regolamento del Senato e come sempre è stato fatto. Nulla finché il Senato, non la Giunta, non ratificherà il verosimile atto negativo della Giunta, il senatore Berlusconi resta in carica. No, ma questo non c'è dubbio. Secondo me Berlusconi dovrebbe dimettersi prima e soprattutto accettare i servizi sociali. Ecco, tra l'idea dei servizi sociali e quella dei arresti domiciliari, lei che dice? La scelta tra una strada piuttosto che l'altra non è mai facile. Per Berlusconi è ancora più difficile. Appunto. Perché ci sono dei vantaggi di un certo tipo per una scelta e dei vantaggi di un altro tipo per l'altra. Lei capisce, credo che arriverà a capirlo anche Parenzo. Sì, credo. Sì, va bene, gli dà una mano lei. Sì, ci provo. Cioè, personalmente lei è favorevole a che cosa? Ai servizi sociali o agli arresti domiciliari? Questo ce lo può dire almeno. Così che io personalmente personalmente io. Sì. Io non andrei né ai servizi sociali né all'affidamento in prova, ci andrebbe in galera? Oh sì, senz'altro. Questo è buono, anch'io andrei in galera. Vedi, siamo molto simili a lei, avvocato Longo. Sono Piero Longo, non sono un politico come Berlusconi, ma nemmeno mi avvicino a lui. Però fossi nella situazione di Berlusconi, io personalmente andrei in galera. Ma guarda che io sono come lei, io sono molto più vicino. Ma io andrei in galera per non dare la soddisfazione a nessuno di quelli che intendono vedere anche con attenzione un po' da avvoltoio come fa la povera vittima, tra virgolette ovviamente, sì, a gestire sia la questione politica, sia la questione giudiziaria, sia quella sua personale e familiare. Però mi dica la verità, quest'idea è venuta in mente anche a Berlusconi? Perché io credo l'abbia detto anche qualche volta, oppure c'erano delle indiscrezioni? Cioè, le ha detto qualche volta Berlusconi in privato, per non dare soddisfazioni vado in galera, vorrei andare in... Lei può capire che in molte riunioni, in molte ore di conversazioni, sono state valutate, messe sul tavolo tutte le opzioni possibili, sì, che si potevano prospettare. E lui rispetto alla galera che cosa ha detto? Che lui in realtà ascolta molto, sa, perché lo so, di però... grande pazienza e di grande intelligenza. Lei non ce lo vuole dire, ma secondo me una cosa sulla galera l'ha detta, cioè una cosa su questo l'ha detta. Guardi, ha detto su di tutto il Presidente della Repubblica, l'ex Presidente del Consiglio. Ha fatto commenti su tutte quante quelle che... No, d'accordo, però secondo me l'idea di andare in galera è una cosa, per carità, nella drammaticità che significa andare in galera, però insomma no, è una cosa che quasi lo solleticava, no? O sbaglio? Beh, sa, ci possono essere delle sfumature su questa istanza, però per esempio andare in carcere... Nel carcere italiano oggi a 30 anni sano è una cosa, andare in carcere oggi a 76 anni con qualche acciacco in verità può suggerire altre strade. Parenzo, hai capito questa cosa? No, qua? Fosse, però questa è forte, fosse per lui andrebbe in galera, il senatore Longo andrebbe in galera subito. Sì, ma io andrei in galera per 9 mesi. Come dicono i miei clienti, andare in galera è come stare in freezer. se non è ovviamente una galera, dice, ma in galera per 20 anni, no, dice, aspetta un momento, allora c'è un'altra opzione, per esempio quello di lunghe passeggiate ai confini, ma la galera, il carcere per 9 mesi, non sarebbe neanche un anno. Vabbè si può fare, diciamo, si può fare. Questi hanno garanzie? No, non ci sono garanzie, se in galera. Se per esempio ci sono le condizioni, come dicevo prima, condizioni di età. Di età, di salute. Però è curioso. Ma io non ho capito una cosa, ma tra le tante ipotesi che sono state fatte, sono state esaminate tutte le ipotesi. Andare all'estero, semplicemente. Adesso non si può perché non c'è il passaporto. Però prima, lei, molti l'hanno detto, Feltri ha detto doveva scappare, eccetera. Non ha mai preso in considerazione l'idea di andare via? Ma guardi, penso proprio di no, ve lo dico a Parenzo che non occorre il passaporto per andare all'estero. Come? Si può andare all'estero anche varcando i confini e trovandosi all'estero senza passaporto. Cioè si può andare ad Antigua, anche senza passaporto, dice lei? Ma certamente, per amor del cielo, intanto possiamo andare fuori dall'Italia, fuori dal passaporto. Perché non c'è Berlusconi oggi italiani. Potrebbe andare via senza passaporto, dice lei? Ma scusi, con tutti i clandestini che arrivano in Italia, arrivano col passaporto? Beh no, ma ho capito. No, quelli sono quelli sono clandestini, avvocato. Spieghi all'ottimo Parenzo che uscire dall'Italia, visto che ci sono le Alpi, si può fare facilmente. Guardi che qualche volta quando vanno a funghi in Alto Adige si trovano in territorio austriaco. Beh, austriaco, però non c'è un confine. No, d'accordo, però Berlusconi, lei dice, potrebbe andare all'estero anche oggi senza il passaporto, no? Potrebbe... No, dico, tutti possono andare all'estero. Sì, tutti, però Berlusconi potrebbe prendere l'elicottero e andare ad Antigua domani mattina, dice lei. Con l'elicottero non ci arriverebbe, come è noto, perché non c'è abbastanza autonomia. Beh, all'elicottero intendo l'aereo privato, insomma, quello che cioè, potrebbe... No, quello sarebbe un po' più difficile. Senta, ma la grazia lei la chiederà come avvocato di Berlusconi? Voi come avvocati, collegio... Oppure... Allora, la grazia è una iniziativa che può prendere solo condannato i suoi prossimi congiunti. La grazia però per Berlusconi è un'iniziativa che può prendere soltanto Berlusconi, perché non credo che i suoi prossimi congiunti opererebbero qualche cosa in difformità della decisione dell'ex Presidente del Consiglio. Ma se ne sta parlando di questa possibilità? È ancora... Per carità, ma come le dicevo, si è parlato di tutto. Anche della fuga? Ma no, della fuga non si parla. Però dell'estero sì, di andare all'estero sì, si è parlato. Se ne è anche accennato sui giornali. No, sui giornali, all'interno, ad Arcore, qualche volta se ne è parlato, è meglio andare all'estero, si sarà detto una cosa del genere, no? Ma guardi, queste sono battute che in un contesto di conversazioni che aveva ad oggetto questioni molto più importanti dal punto di vista tecnico-giuridico, era un ballon d'essai che è stato lanciato una volta e raccolto da nessuno. Però io voglio dire, la questione della grazia, Parenzo, alla fine qualcuno la presenterà o no? Cioè la grazia, poi al di là lui deve presentarla. Al di là dell'articolazione, cioè Berlusconi chiederà la grazia a Napolitano, sì o no? Questo chiediamo, avvocato. Non vedete, ci ha chiesto prima, gli ho detto che non lo so. Non lo sa, vabbè. Se volete continuare a farmi la stessa domanda per tentare di ottenere una risposta. No, vabbè, non lo sa, nel senso che è sul tappeto, allora, però. Così. È sul tappeto o no la questione? Che tipo di risposta volete? No, nessuna, quella su, quella vera. Se quella... dite che risposta volete, io tento di darvela. No, quello che c'è. Sono, lei sa che io sono assolutamente ossequioso e prono alla ai media, ai giornalisti. No, questo non è vero. E sa perché rispondo a lei? Perché? E anche a Parenzo. Perché, mi dica? Perché c'è questa simpatia in realtà che mi lega a voi. Non ho ancora capito perché. Infatti, questo... ma siccome se capissi perché, potrei anche distogliermi da questa simpatia. È meglio non capirlo. Professore, noi siamo come quei gatti che si attaccano, scusi la metafora, ai coglioni. Esattamente. Maroni, Parenzo, per amor di Dio, non è neanche fascia protetta questa. e provocano quel piacere e anche un po' di dolore, ma anche un po' di piacere. Però scusi, senatore, io adesso però io no, questo non mi io sa che alla fine qualche cattiveria la devo dire sempre. Lei perché non va mai al Senato? 98% di assenza. Alla fine. Ah, non vado mai al Senato. Dicono le votazioni. Le votazioni. Ormai vado rarissimamente. Le votazioni, intanto lo vado per far piacere ai grillini. Come non va per far piacere ai grillini? Certo, perché meno avversari hanno alla Camera e anche a quelli di Sel. Meno mi vedono, meno fastidio do e meno danni posso fare, per esempio, e che non è poco. Non ci vado perché io faccio quello che voglio, ho capito, però la Costituzione, sì, non c'è l'obbligo, non è come forma di arroganza, perché io faccio molta attività politica come voi potete immaginare, e non è detto che tutta questa attività politica debba essere fatta in un palazzo in cui il tempo che si perde è qualche cosa di pazzesco. No, bisogna, senta, io proporrò che lei venga alla Camera come deputato la prossima. Potrei accettare. Sì, ma vedrà un po' cosa significa. Cioè si perde tempo, si perde troppo tempo. 10 ore. Sì. 10 ore. Sì. Per poi sentire una serie di considerazioni al tutto decorose, ma superflue e tirate in lungo perché la gente vuole farsi vedere. Siamo qui, caro Parenzo, 800 24 00 24, con l'avvocato Piero Longo, PDL, uno degli avvocati di Berlusconi. Però io dico una cosa, che c'è un commento, quello di Antonio Polito, che ho letto, adesso la butto sul serio, al di là delle prese in giro, del ritorno 94, eccetera, eccetera, che mi pare particolarmente efficace. Dice tutti quanti a dire il ridicolo, il ritorno, eccetera, non si può... Non può funzionare, eccetera. Però nel 94 questa cosa funzionò. Attenzione, perché non è scontato che la presa in giro va bene. Anche noi giochiamo sul 94. Berlusconi che sembra Mao, no? Con questa faccia che sembra Mao Zedong, no? Un po'. No, asfaltato, sì, avvocato, asfaltato come Mao. Però attenzione, poi alla fine, no, Silvio tira fuori sempre colpo di coda. Attenti a dire no, non funziona, Forza Italia di nuovo. Attenzione. Vabbè, avvocato. Attenzione, perché la gente si preoccupa, perché è un'aspirazione che la destra si possa così riorganizzare in maniera forte, anche se il attualmente. Ma lei si iscriverà a Forza Italia? Come? Lei si iscriverà a nuovo Forza Italia, avvocato Longo? Alla nuova formazione? Sì. E che volesse porre in essere il presidente Berlusconi. Vabbè, adesso non la metta su, l'ha detto pure lui. Così, certo, allora no, le sto dicendo. Ne guarderò i programmi. Ma conoscendo, mi lasci finire. No, lei sembra Parenzo. No, allora? Ne guarderò i programmi e il 99% penso che ricondividerò come ho fatto in tutti questi anni. Però scusatemi, senatore Longo, se lei è entrato in sostanza al Senato, alla Camera, quello che è, con Berlusconi, se Berlusconi dovesse uscire, voi che fate gli avvocati ma anche i deputati eccetera, che ci state a fare? Esca anche lei con Berlusconi, no? A me sta una classica petizione di principio, la quale, per la quale sta a significare, secondo questo suo contorto concetto, che noi, che Dini e Dio, siamo andati alla Camera soltanto e al Senato, perché siamo scambiati, solo perché c'era Berlusconi. Beh, in parte sì. No, noi siamo andati al Senato e alla Camera, seconda, stati, perché c'era il Forza Italia e poi perché c'era il Popolo della Libertà. Ma lei non ci va mai, però, ha detto. È diversa. No, io ci vado poco adesso perché non c'è bisogno di me, tra l'altro, senza dimenticare... Però lo stipendio lo piglia. Certo che lo prendo. No, per il 98% di assenze, 98% poi ci va poco e prende lo stipendio. Qualcuno si potrebbe incazzare del popolo, la gente. Ma il popolo fa ragione di potersi incazzare, ma il popolo, quale popolo? Ma la gente magari si incazza, questo non va mai al Senato e piglia i soldi. Facciamo un momento di... non si possono incazzare i miei avversari, perché meno vado, più contenti sono. Si possono incazzare quelli del centrodestra. E io spiegherò a loro le ragioni e quello che ho fatto quando non andavo alla Camera. Non va alla Camera, che dice si spreca. Perché... Mi sembra normale. Beh, scusi, però lei non può dire si perde tempo. Se uno perde tempo in un posto si dimette, non ci va. Vabbè, comunque. Ma può darsi che lo faccia un giorno. Ma non per farsi dice Parenzo o lei. Ma certo, non ha un minimo di senso. No, però mi dispiacerebbe. Io voglio far felici i grillini e i selli. Andando. Però no, non andando. Non posso farli così entusiasti se dandogli dimissioni. C'è un limite a tutto. Alla mia bontà nei loro confronti. Scusi un attimo, avvocato, non si sente un po' in colpa, un minimo di per dire. Perché prende lo stipendio senza andare alla Camera, dice. Certo, un minimo di. Si sente in colpa, avvocato? Nietzsche ha scritto che il senso di colpa è una stupidaggine. Come il morso di un cane a una pietra, citazione che certamente Parenzo conosce e che io mi sono permesso adesso, per carità, di rinverdire soltanto una sua memoria forse un po' appannata. Guardi, il senso di colpa nasce quando uno fa una cosa e poi dice per bacco cosa ho fatto. Non si può avere sensi di colpa quando si fanno le cose prevedendo prima. Cioè lei quando va alla Camera, quando va alla Camera le fa un po' schifo andare là, diciamo la verità. La Camera mi sento un po' in colpa nei miei confronti. Però il senso di colpa non fa parte. Cioè perché sto qua, dice lei, perché ci sto? Che sto a fare qua a perdere tempo? Questo pensa? Sì, un po' sì. Poi un'età ormai abbastanza avanzata. Senta, però Berlusconi nel messaggio di oggi ha fatto capire che insomma in Europa dappertutto farà ricorso contro la sentenza per la revisione. Questa è una linea processuale che lei insomma concordata con lei, è così, sarà così in ogni dove, cioè in ogni sede possibile immaginabile? Si verificherà. E credo che sarà così. Sarà così. Senta, ma è vera questa cosa che c'è un difetto di composizione del collegio con un giudice che è un civilista, eccetera? Ieri c'è stata una cosa un avanzata. Ma hanno chiamato i suoi colleghi. Non sappiamo assolutamente nulla. Mi pare che sia un'iniziativa extraordinaria di persone che, per carità, lei non approva questa, non approva questa iniziativa? Io non approvo nessuna iniziativa che sia priva di un minimo di senso giuridico. Dunque questa cosa qui non ha fondamento, questa cosa? No, assolutamente. No, è tanto per capire. Scusi, la Severino, lei siccome poi sta portando a questa discussione, ma lei non consigliò all'epoca qualcuno del PDL che decideva di dirigenti, eccetera, di non votarla, di non approvarlo, comunque su questo punto di stare attenti? Non lo credo mica di averla votata io. No, perché c'è il testo unico, c'è stato un decreto legislativo, eccetera. Ma io credo di avere allora espresso ampie riserve. E come mai che il PDL, nessuno si è reso conto che era una cosa che si poteva ritorcere su Berlusconi, questa roba qua? Beh, il PDL, ma voi pensate veramente che tutti i deputati e senatori del PDL guardino quando fanno le leggi? No, credo di no, se me lo dice lei. Ad Arcole, ma per carità, voi avete una strana idea. Cioè non quando fanno le leggi manco le guardano, dice lei. Certo che le guardano, ma non le guardano... solo, sempre esclusivamente ma sa poi perché questa legge non poteva riguardare Berlusconi? Vabbè, questo adesso non apriamo, perché non poteva essere retroattiva quando vogliono fare dichiarare vabbè, no? Non è mai venuto fuori questa discussione, avvocato Longo, sempre, non è mai venuta fuori perché non era discutibile di fronte alla banalità e alla certezza del diritto. Lei dice non viene fuori. Ma dai, ma... Senta, ma Berlusconi ha paura di essere, anche voi, ha paura che se decade da senatore potrebbe intervenire una richiesta d'arresto di qualche PM, magari per la questione di Napoli o per la questione di un altro, di un'altra vicenda Rubi, eccetera. È possibile una cosa di questo tipo? C'è questo timore? Ma più che un timore è una certezza. Conoscendo... No, no, non è una certezza. Conoscendo certa magistratura, sì, certe procure, questa è una prospettazione che è stata fatta, sì, ma siccome su questa... cioè voi vi aspettate una richiesta di arresto? Su questa possibilità, sì, noi non abbiamo possibilità di creare strumenti giuridici. Beh, restando in Senato sì però. Sì, restando in Senato sì, ma in Senato non ci rimane, perché il PD ha deciso, insieme al... A 5 Stelle? A 5 Stelle... E dunque, come fare a impedire l'arresto di Berlusconi se qualche PM venisse in mente di spiccare un mandato? Non si può. No. E lui è pronto a questa evenienza? È preparato? Ma come? Ma certo che è preparato, non è mica uno sciocco che non sa. Cioè la teme questa cosa qua, che un magistrato, un woodcock, che ne so, qualcuno tiri fuori un mandato di arresto? Guardi, io conosco molto bene Berlusconi da 15 anni. Sì. Io non credo che il timore sia la leva dei suoi comportamenti e neanche delle sue conversazioni. Però è così. Però è una possibilità che lei, per esempio, ha ben presente davanti, avvocato. Ma certamente che l'ha presente. E che succede in quel caso? Arrivano a mandato d'arresto, che succede? Arriva a mandato d'arresto, va in carcere, sì? Gli avvocati fanno la richiesta di riesame al Tribunale della Libertà, poi quasi da augurarselo se ci fossero le elezioni, dice lei. Perché? Ma sa, il martirio, le cose, il carcere, stupendo, una cosa meravigliosa. Questa è una visione politica. Alcuni hanno detto che a lui in carcere prenderebbe 2-3 punti in più di percentuale. Secondo lei? Beh, secondo me sì. Appunto. Allora, ma questo è un problema. È un problema che ottimo. Deve riguardare Renzi. Lei dice siccome prenderebbe 2-3% in più dovrebbero, come dire, preoccuparsi del fatto che Berlusconi va in galera. Così. Posso dirle una cosa sinceramente? Sì, sì. Se io fossi a capo della coalizione di centro-sinistra, sì, farei di tutto perché Berlusconi non perdesse il seggio senatoriale. Lei dice per rimanere in Senato, perché fuori prende più voti. Perché no? Perché fuori, perché in galera prende più voti. In galera prende più voti. Qui non c'è un problema di togliere il seggio e rimane fuori. Qui c'è il problema, togliere il seggio e va in carcere. Lei dunque è una prospettiva realistica, molto realistica. Aspetta un secondo, se non fa la domanda di grazia, se non viene fatto l'affidamento di prova al servizio sociale e quant'altro, vanno a prenderselo. E la portano in carcere. Vabbè, quello verrà fatta per altre vicende, io dico la mandato di arresto per quello che è già deciso, sicuramente la farà la richiesta dei servizi sociali, no? Immagino. Ma guardi, non immaginate troppo. Non immaginiamo troppo. No. Comunque, avvocato, alla fine l'immagine di Berlusconi, io dico in maniera molto cruda, che pulisce il sedere, il culo, diciamolo pure, ai, che ne so, detto con tutto il rispetto, ai disabili, agli anziani, è meravigliosa. Mi dica lei se non ho ragione. Cioè Berlusconi fuori dal Senato, che va in servizio con i servizi di chi? Con i servizi giornalistici, le foto, oggi, eccetera, di Berlusconi che in maglietta va in servizio sociale per un anno. Mi dica se non è un'idea geniale. Io guarda che i servizi sociali sono di grandi caratteri. Si può fare i servizi sociali anche andando a fare l'archivista o il bibliotecario. Ma lei cosa consiglierebbe? Che tipo di servizi sociali consiglierebbe? Guarda che i servizi sociali sono proposti dal servizio sociale, dall'autorità. D'accordo, ma lei cosa consiglierebbe? Che tipo di servizi sociali consiglierebbe se fosse... No, guarda, su questo momento non ho più pari idea. Potrei fare qualche battuta, ma no. Appunto. No, non la faccia. La faccia. No, è troppo tardi. può farla? Sì, può farla. Guardi, abbiamo scavallato, sono le 8:10. Stiamo per chiudere il collegamento. Servizi sociali, con tutte le beneficenze che ha elargito il presidente Berlusconi. Potrebbe farli ovunque. Non so, non credo che avrebbe difficoltà a trovare ospitalità in strutture. Ma quello no, certo, conosciutissime, eccetera, eccetera. No, senta, ma lei non occorre certamente andare a fare attività di igiene personale come lei. Perché no? perché non occorre, perché ma è, però è la cosa più, è la cosa più giù, più vera, più, più anche più, più popolare, più popolare, no, più popolare, va là con le foto mentre dà da mangiare ai poveri, è una cosa eccezionale. Avvocato Longo, io sono geniale. Gli dirò che lei ha, guardi, io sono fautore di questa cosa, dimissioni dal in pochi giorni, dimissioni da senatore, basta, tanto è inutile. Sì, poi l'arresto può darsi, però dimissioni da senatore, così facciamo così i piedi del PD che fanno? Si ubriacano tutta la notte di contentezza perché gli è stato tolto una patata. Ma no, ma tanto è uguale. Ma no, lei lo sa perfettamente che non è uguale. Ma i 500 milioni di euro, il bonifico è già partito? Quando partirà il bonifico? Sono stati già dati. Come? Ah, perché erano stati già dati in cosa? Sì, dunque sì, adesso sì, si possono utilizzare? No, se ne devono dare indietro. Perché? Ah, perché 75 milioni. 75. Ma comunque sì, già sono nelle tasche di De Benedetti questi soldi? Ma da tempo, dalla sentenza. Ah, perché si paga subito la cosa, la... Sì, sì, no, lì. No. Però si possono già utilizzare? Possono utilizzarli già prima, certo. Ah, l'ha già utilizzati secondo lei, l'ha già spesi, signor De Benedetti. Ma l'ha già 30, già spesi come gli abbia. Ma è una rapina, secondo lei, una rapina a mano armata, secondo lei è stata questa? Non ho la più vaga idea, perché non se ne è occupato. Il suo collega, collaboratore che mi ha chiamato. Non se ne è occupato. Mi sono occupato assolutamente. Meno male, dice lei, no? Almeno questo. Oh. Senta, ma Marina Berlusconi è pronta per fare la politica, secondo lei, oppure se ne frega totalmente? La dottoressa Marina Berlusconi ha detto che non vuole scendere in politica. Per questa è una decisione. Fa bene, secondo lei? Così, un suo consiglio spassionato. Cosa vuol dire se fa bene? No, fa bene, potrebbe subire lo stesso trattamento. Potrebbe subire lo stesso trattamento del padre? Che è successo, avvocato? Subirebbe senz'altro lo stesso trattamento del padre se mantenesse la stessa linea politica del padre. Dunque io lo sconsiglio, fosse un suo consigliere. Ma bisogna vedere quanta voglia di rischiare ha l'autorità Berlusconi. Vabbè, avvocato, la sento lontano, il telefono mi sa che si sta consumando, ci sentiamo presto, le battute si potevano fare comunque, sono le 20:10, i bambini sono già a letto. Ah sì, sì, l'ha già fatta prima Parenzo. Ah, dica Parenzo. Sì. Se per fare il gatto che si attacca ai marroni, con le unghie, sì. Sì. Tanto bisogna avere le unghie. Sì. Dico lui, Sì. E poi bisogna trovare i marroni che siano unghiabili. ci pensi. Arrivederci, buon lavoro. Vado a stare svegli per amare. Oh, guarda chi ho qua, Parenzo, guarda chi ho. Senti un po', Savino. Mi ha rimesso di buon umore il professor Longo. Savino da Bari, signor Savino. Da Andria, io sono di Andria, non da Bari. Vabbè, lo so, Savino, come stai, caro Savino? Io sto bene. Allora, vai. Ma non mi dovevi spedire qualcosa. Non ti preoccupare, te lo spedisco. No, non è un pacco di droga, non è un pacco di droga. No, la foto che cioè, io voglio dire solo una cosa, ma si possono dare mezzo miliardo a quel cornuto di De Benedetti che c'ha la residenza all'estero? Ho capito, non è che l'ho deciso io, il tribunale l'ha deciso. Ma se possono dare uno che ne ha combinato una più di Bin Laden, quello ne ha combinato più di Bin Laden. Beh, Bin Laden, quel dai, cornuto. Savino, su, Parenzo, di qualcosa, Parenzo. Va bene, Berlusconi, no, ma intanto, come al solito è un asino, è come al solito un asino, perché non ha la residenza all'estero. Berlusconi è pure stronzo, perché dovrebbe andare in Parlamento, dovrebbe fare come ha fatto se c'è qualche cornuto qua dentro che non ha fatto gli stessi reati che ho fatto io, che si alzi in piedi. Ti ricordi che non si è alzato nessuno in piedi? Sì, con Craxi. Te lo ricordi? Sì. Doveva dire così dicevi, e deve andare anche alla riunione degli industriali. E doveva dire la stessa cosa. Se c'è in Italia un industriale è un parlamentare, un politico che non ha fatto le stesse cose che ha fatto Berlusconi. Berlusconi è minimo in confronto a quelle che hanno fatto gli altri. Capito? Parenzo, digli qualcosa. Capito, l'analisi di Savino. Berlusconi, se stasera lo condannano e lo porta al carcere d'opera o al carcere di San Vittorio, vince le elezioni. Ma questo se lo votano a favore, se lo votano contro. Cioè, se lo votano a favore perde le elezioni, se lo votano contro vince le elezioni. Hai capito, Parenzo? Io sono contento se lo votano contro, penso un po'. Parenzo? Ma io sono contento se lo votano a contro. Ma di che cosa parla il signor Savino? Tu ma sei lungo, pare che a te se ti mettono le cimici e il telefono sotto controllo come Berlusconi, io a te ti trovo le mente per carcerata a vita, Parenzo. Ha capito, Parenzo? Stati zitto, Parenzo, che io non devo prendere l'ordine dal giudice per mettere le cimici e il telefono sotto controllo. Io lo faccio anche se mi arresta, mi cagano un cazzo. A me mi caga la minchia. Ma che vuol dire? Scusa, che metti sotto controllo? Cosa vuol dire, professor Savino? Ha capito? Parenzo, stai zitto, Parenzo, che tu la sai lunga, ma non la sai raccontare, Parenzo. Ma non capito? Perché devi mettere sotto controllo il telefono di Parenzo? Scusa, sai. No, siccome dice che è contro sempre Berlusconi, a me poi ripeto, cioè, voglio dire una cosa, io non so né Berlusconi, ma può essere di Berlusconi di sinistra o di destra, uno che non l'hanno fatto mai votare? Ditemelo voi. Chi? Uno che lo non, io non mi hanno fatto, non mi hanno fatto mai votare, ma io vedo le cose. Ma dici quello che fa Berlusconi no, in Italia non l'ha fatto nessuno, ma piuttosto quello che fa la magistratura in Italia non la fa in nessun paese del mondo. Capito? Qui c'è una piccola parte della magistratura. Sì. Che, insomma, io non lo so che Savino, ma lei si sa, Savino, ma lei non andrebbe a far parte dei missionari della libertà, dei nuovi missionari? Ma Berlusconi è pure stronzo, te lo dico io, sai perché? Perché dovrebbe chiedere aiuto a Putin. E se deve togliere, l'ho mandato a dire pure su una lettera, se deve togliere, così se toglie dal cazzo, chi gli rompe il cazzo? Ma lui dice dovrebbe andare in Russia, dici tu, no? No, deve rimanere in Italia Berlusconi. Ma se può mettere in galera uno che paga il più grande contribuente italiano? Vabbè, ho capito, uno ma che vuol dire? Uno che ha dato tanto all'Italia, operai, ha messo datori di lavoro, cioè un datore di lavoro è uno che paga tassi a quelli. Capito, Parenzo, capito? Uno che ha sempre dato allo Stato, e quelli che hanno sempre preso quei parassiti, che hanno cominciato a prendere da dentro le sezioni. Da dentro le sezioni hanno cominciato a prendere, finché sono arrivati in Parlamento. Hanno fatto sempre i parassiti, E voi li conoscete bene, i moralisti parassiti. I comunisti, quelli dice sono lui. Moralisti e parassiti. Quello ha sempre dato. Qui stanno quelli che hanno sempre presi. Capito? Ha capito? Comunque, però non è vero. Ditemelo voi. Un consiglio al senatore Giovanardi: sul sito del PDL, sul sito di quello che lui pensa che ancora esista il PDL, è comparsa una cosa che ho scritto Forza Italia, in campo con Forza Italia. Senatore Giovanardi, non esiste più. Vince di nuovo le elezioni. Non esiste più. Capito? Ha ragione. Capito? No, voglio dire a te, Parenzo, Savino sta dicendo vince di nuovo le elezioni, capito? Vabbè, vince, sì. E voglio allora fermi tutti, un commento. Aspetta, Savino. Quello si preoccupasse di asfaltare le strade in Italia, quell'altro di Firenze. Che va bene. Da asfaltare a Berlusconi, perché Berlusconi asfalta lui. Grazie Savino, Stefano da Brescia. Grazie Savino, Stefano da Brescia. Pronto? Vai Stefano. Ciao, buonasera Cruciani. Però mi sorprende, voi siete ossequiosi veramente verso i potenti. Ma quale ossequiosi? Scusa, posso parlare? La solita cosa, la solita solfa. No. Che palle, vai Stefano, mi ha veramente rotto i coglioni lei questa cosa. No, guarda, mi ha veramente rotto i coglioni. Questo professor Longo si è permesso di dire che praticamente lui in Parlamento non va. Infatti gli ho detto che gli abbiamo detto che non va bene, gli abbiamo detto che dovrebbe dimettersi. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ammazzare? Che dobbiamo fare? Scusami. Menate, fate bene quelli un pochettino più fessi e più devoluti, questi che sono corazzati è difficile. Ma corazzati però, di che? Io volevo capire. Scusami, avete fatto semplicemente una risatina su una cosa che è grave. Lui si è permesso di dire posso? Sì, prego. Si è permesso, praticamente ci incrociamo e non ci capiamo. Si è permesso di dire che praticamente lui in Parlamento fa un pochettino quello che vuole. Esatto, non lui sapevo, fa quello che gli pare, cioè non ci va. Non sapeva questo professore che andando in Parlamento, permetti, questo professore andando in Parlamento che ci possono essere delle sedute fiume ed è il suo dovere partecipare? Stefano, se ne fotte. Ha detto che si perde tempo. Volevo che ci spiegasse, che dicesse i motivi. Per questo l'ho lasciato parlare. Ha capito? Se lei non lo capisci, non ci posso fare niente. No, come voi bacchettate me o altri, fate bene. Io non sto bacchettando. Un argomento del genere che non mi interessa quello di Berlusconi è abbastanza grave e deprimente. Che cosa devo fare? Mandare a fare in culo? Esatto. Ma lo faccia lei allora. Blondo, ah, no, lo faccia lei, lungo, no. Vada a fare in culo, lo faccia lei. No, io l'ha detto lo lei. Faccia lei. Io non ah, ha paura, lei. Ha paura lei. Ma lo mandi a fare in culo. Lo mandi a fare in culo, se ha coraggio. No, io no. Scusi, io non uso quel linguaggio lì. Beh, no, e allora che vuole. Però, scusi Cruciani, lei mi ha dato la possibilità di parlare, mi faccia completare, poi... Ma è due ore che sta parlando, Stefano, abbia pazienza. Però è grave che uno che venga eletto si permetta di dire che vuole... Oh, l'abbiamo detto, Parenzo. Una cosa da enfatizzare parecchio. Benissimo, lo vuole mandare a fare in culo. Ma è una delle cose che abbiamo ripetuto di più. Ma che dobbiamo sparargli all'onorevole, l'ho capito. No, sparagli, però metto davanti le sue responsabilità in maniera dura ed evidente, secondo me era molto Vabbè, meglio. Stefano, lo vuole mandare a fare in culo o no? Ma lei che l'ha mandato, io ho detto... Non lo vuole mandare a fare in culo, vabbè. Una persona che parla in quei termini lì è completamente fuori luogo. Va bene. Per qual motivo è stato se è voluto fare legge in Parlamento? Qual è il motivo? Aspetti, allora? aspetti un attimo. Antonio Di Pietro, buonasera! Abbiamo fatto noi l'Italia dei Valori abbiamo fatto che lo devono arrestare subito e l'abbiamo detto, e quello è un credito, arrestare immediatamente l'Italia dei Valori l'ha detto. Ma chi? Con chi l'ha detto? L'abbiamo detto, non ci azzecca niente questa cosa, non ci azzecca niente a zangarle con le commenti, la lungo è un criminale, quello va arrestato subito. Abbiamo detto noi l'Italia dei Valori, abbiamo detto. Quando stavo sul trattore, sempre, abbiamo sempre detto, noi dell'Italia dei Valori, hai capito? È chiaro il ragionamento, no? Anche mia nonna ha detto. Deve essere chiaro, mia nonna ha detto sempre, diceva sempre, quando tu stiri la pasta si stira e se la tiri troppo si spacca. Abbiamo sempre detto questo. E quindi è chiaro la metafora, hai la pasta, la stiri tutta come fai i tortellini, stirala, se la stiri troppo si spacca, è chiaro, no? È che si spacca la scassata del paese. E noi abbiamo detto, è chiaro il ragionamento o no? Insomma, vabbè, grazie. Gennaro da Latina, buonasera Gennaro. Buonasera, volevo dire, rispondo a Stefano, ma l'avvocato Longo ha visto, purtroppo secondo me sta poco bene, sentivo come parlava. Poi volevo dire un'altra cosa, l'avvocato Longo sa benissimo che lui non può chiedere la grazia sempre che Berlusconi non si dichiara colpevole, volevo domandare un'altra cosa, lei ha mai visto qualcuno davanti a un giudice che dice che è colpevole? Beh, qualcuno sì, ogni tanto, raramente, ma ogni succede. Ogni tanto scappa. Poi, vabbè, allora, Gennaro, che vuole dire? Che praticamente... firmano così le leggi e noi siamo in mano a questa gente. Lo so, ma lì lui dice di non averla manco votata, in realtà c'è tutta una cosa complessa, in realtà è stata condivisa da tutti i dirigenti del PDL, ma a me ha fatto entusiasmare oggi un'intervista sul Fatto Quotidiano a Cavalli, Roberto Cavalli. Io sono sicuro che Parenzo approva questa cosa qui. Quando vedo una Ferrari, dice lo stilista Cavalli, mando una foto alla finanza. Cioè, Parenzo, non mi dire che tu approvi questa roba qui, che tu vedi una Ferrari. Io te lo volevo dire dall'inizio, questa roba qui ha fatto incazzare Briatore, perché la polemica non è soltanto su quello che ha detto Cavalli. No, c'è anche Briatore, certo, Briatore, appunto, sì. Perché lui cosa dice realtà, di Briatore? Cavalli, sì. Cavalli dice una cosa molto che dovrebbe dire qualunque cittadino normale. Cioè che cosa? Si figuri, quando vedo le Ferrari parcheggiate in giro mando le targhe ai finanzieri, ma dai, cioè su. Fare dell'ottima delazione. Ma no, ma che c'entra? Non è che tu vedi una Ferrari e mandi la targa ai finanzieri, dai, su, David. Ma è una cosa vergognosa quella che dice Cavalli, sì, dai. Poi gli piacciono le tasse, tassateci di più, ma di che stiamo parlando, no, dai. Quello dice una stupidaggine, ma se tu vedi il tuo vicino di casa, che conosci da 20 anni, improvvisamente vedi che ha una Ferrari, tu non è che provi invidia sociale, però dici, scusami, possiamo farlo accertare dal fisco? Ma che gliene frega lui? Ma ci pensasse il fisco ad accertare se uno che c'ha la Ferrari vale, no? O no? La delazione fiscale, cioè, tu... è uno dei più grandi atti che un liberale possa fare. Ma sei un pazzo. Comunque, perché Briatore si è incazzato? A parte che voglio capire da voi che ci ascoltate se siete d'accordo, cioè se vedete una Ferrari, vedete una Maserati, che fate? Fate una foto e la mandate al fisco, sì o no? E poi dice di Briatore. Quando Renzi andò da Briatore, gli mandai un SMS, ero meravigliato, sì. perché frequentare chi ha avuto guai con la finanza? Dai, su, via. Segreteria telefonica! Ma Bucchini, ma signori Bucchini, ma se non andasse a fanculo, ma stiamo parlando di persone che non hanno la minima idea di cosa significhi stare al mondo, i libri che ho sul comodino. Ma caro Mucchini, io sul comodino ho la sveglia e mi rompo i coglioni tutte le mattine. Non sono un cazzo di filosofo di merda a casa a non fare un cazzo, ma te ne andassi a fanculo. Per andare con il dottor Sgarbi mi farei pagare io da lui. Per andare con il dottor Parenzo gli darei se no 25 euro. Per andare con il dottor Cruciani basterebbero 10.000 euro. Buona serata. Allora, un messaggio per Cruciani e anche per Parenzo. Io stavo parlando, mi hai riattaccato il telefono. Siete due ignoranti. Quell'ignorante macaco deforme che è vicino di Parenzo non capisce un cazzo. Mi stavo anche dicendo, visto che parla sempre di Pasolini come Fosgarbi, che non sapeva nemmeno che Pasolini era stato processato per pedofilia. È ignorante, andasse a studiare a Giorgione Sganti. Avete rotto i coglioni, siete due cafoni maleducati. Ciao. Parenzo assomiglia ad Alvaro Vitale. O lì, non lo so. Sei proprio uno sfigato. Ciao. Parenzo sprocio, riccione. L'ho sempre detto, fare l'amore durante la zanzara è la cosa migliore che ci sia. Come la zanzara, non c'è nessun altro eccitante al mondo. Grazie, dottor Cruciani. Pronto, sono sempre il solito stronzo, io, Samuele Nato Antonanzi da Urbino. Ma secondo voi, apparenza tra l'altro io non la voglio insultare perché mi è pure simpatico, non lo so come. Però mi sono sempre chiesto come fa Parenzo quando gode perché tromba. Ma ve lo siete mai immaginati quando tromba Parenzo? Come fa quando gode? Ciao David, non ho capito Davidino. Furbo, zitto, tanto trombo, via. Ragazzi, io voglio più delazioni qua. Voglio più delazioni. Voglio meno sesso e più delazioni, denunce. Dovete sputtanare il vostro vicino di casa, il vostro politico preferito. Avete un mondo a disposizione. 02 46 52. Basta con questi messaggi di sesso, di cose. Basta. Non è che possiamo continuare all'infinito. Va bene ogni tanto, cioè, però ogni sera siete ripetitivi. Ne arrivano centinaia e centinaia ogni giorno. 02 46 52 40 10. 02 46 52. Che c'è? Ti sei mai chiesto perché se tu fai la segreteria telefonica alla zanzara qui arrivano questi messaggi? E se ad esempio questa iniziativa editoriale la lancia il signor Barisoni, non arrivano questi? Ti sei mai chiesto perché tu? Beh, o no? Sì, mi sembra abbastanza chiaro. Sì. Altro esempio, ti sei mai chiesto tu perché ad esempio nella trasmissione condotta dal signor Nicoletti se dovesse fare la segreteria telefonica non arriverebbero questi? Ti sei mai chiesto tu, ad esempio, se nella trasmissione fatta dal professor Carruba, dal mio amico Carruba, dovesse lanciare nella sua trasmissione la segreteria telefonica di Carruba, di Carruba, no? Secondo gli ascoltatori, arriverebbero questi? Adesso voglio capire. Senti, c'è una signorina che ha un blog sul Fatto Quotidiano, no? Che si chiama, molto simpatica, battaglia come una leonessa, si chiama Barbara Collevecchio, che credo una psicologa, non so come cavolo, no, fa. No. È molto famosa. Sì, sì, credo di sì, non lo so, non mi occupo di queste cose, però è una che occupa di niente. No, è una che twitta molto. Ha criticato Telese perché questa sera Matrix avrà signor Alfano, no, ospite. Allora io ho detto, scusa, perché non conduci tu una trasmissione? E senti come risponde: perché non sono una morta di fama come voi, alla vostra televisione è solo da boicottare. Mi fa godere da morire sta cosa. Che poi almeno tu sei uno stronzo onesto. Telese vuole fare quello di sinistra e non ci riesce. Come lotta! Come lotta! Bene, bene, bene. Fabio da Roma, buonasera Fabio. Bene, mentre si no, quando si lotta, io sono sempre dalla parte di chi lotta. Dunque, signora Collevecchio, io la abbraccio fortissimo. Fabio da Roma. Sì, Frente, buonasera Cruciani, buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Senta, io adesso da un po' che non ho la radio accesa, però circa una mezz'oretta fa, sì, ho acceso per 5 minuti, ho sentito parlare quello che ho saputo che era l'avvocato Longo. Sì, professore anche, professore avvocato, sì, Longo. Da quello che ha detto in realtà non se ne deduce né che è un avvocato né che è un professore. Da quello che ha detto si deduce semplicemente che sta praticamente rubando in maniera legalizzata i suoi monumenti, perché sembrerebbe il furto dello stipendio. Infatti ho detto qualcuno si potrebbe anche incazzare, qualcuno si potrebbe anche incazzare perché lei non va mai alla Camera, dice anche che si perde tempo. Volevo giusto far sapere all'avvocato Longo che io sono uno dei probabilmente molti incazzati. Allora lo mandi a fare in culo, per esempio. No, io non, francamente non vorrei. Ma no, scusi un attimo, abbassaggio a questo livello. Il signor Grillo ha fatto del vaffanculo una specie di programma elettorale. Adesso, se lei dice, Grillo avvocato Longo, vada a fare in culo. Il signor Grillo fa quello che vuole, ok? Vabbè, ma certo, infatti non è che per forza. Una parolaccia. Ma che parolaccia, ormai è entrato nel luogo comune. Lei farebbe mai una foto di una Ferrari per mandarla ai finanzieri, signor Fabio? Senta, io ho telefonato perché... Abbia pazienza, però mi faccia fare una domanda, perché altrimenti non è che può fare il monologo lei, stiamo dialogando, altrimenti... Ma non può fare il monologo neanche lei, cioè perché... Ma io lo posso... La gente che le telefona. A parte che io lo posso fare il monologo, precisiamo questo, io lo posso fare e lei no, se io non voglio, questa è la regola, che qui non è che comanda lei, comando io, fino a prova contraria. Senta, allora, lei mi ha dato questo spazio... Ma lei può fare quello che vuole, però le sto chiedendo... Allora, mi deve dare la possibilità... No, ma le sto chiedendo, io le sto chiedendo una cosa, signor Fabio, ma poi parliamo di quello che vuole. Lei farebbe mai una foto alla Ferrari per mandarla alla finanza, sì o no? No, francamente no. Francamente, basta, io questo volevo sapere, non è che volevo sapere nient'altro. Francamente no, a meno che non avessi dei fondatissimi a parte che è inutile perché la polizia o la finanza hanno già l'elenco delle Ferrari, no? Infatti, diciamo che probabilmente sarebbe semplicemente signor Cavalli il loro dovere, insomma. Vabbè, allora Fabio, lei adesso può dire quello che vuole. Ha visto, risolviamo la questione. Allora, quello che voglio, io immagino che a questo punto il cosiddetto avvocato Longo non sia probabilmente più in trasmissione con voi, no? Però probabilmente sarà vostro ospite anche in futuro. Ma forse sarebbe il caso che lei, come direttore di questa rubrica, si segnalasse il fatto che c'è della gente che ha manifestato la cosiddetta incazzatura per le sue parole, e sarebbe il caso che secondo me domani mattina lui rassegnasse le sue dimissioni. Vabbè, e magari con gli emolumenti che prende potrebbero tranquillamente, adesso questo lei lo chiamerà populismo. No, anche populismo, che questo signore in maniera fraudolenta legalizzata, sì, probabilmente pagherebbe uno stipendio di una decina di persone. Bene. Che magari non andrebbero a lavorare per perdere tempo. Ho capito, no, ma ho capito perfettamente. Fabio, grazie. Eccoci qui, è con noi, caro Parenzo. Buonasera. Buonasera, Pierfrancesco Pellizzetti. Eccoci basta più qui. Semplicemente Pierfranco, che è più modesto. Pierfranco Pellizzetti, esatto. Saggista, è stato professore a Genova, scrive su quotidiani e cose che sono esattamente l'opposto di solito quello che penso io, ma proprio per questo è presente qui oggi alla Zanzara. Manifesto, Micromega. Ha un blog sul Fatto, che peraltro è il primo giornale che io leggo ogni mattina. Professor Pellizzetti, lei mi deve dire una cosa: cosa significa la parola iomaniaco? Perché lei chiama Berlusconi iomaniaco, che vuol dire? Traduciamolo per la gente comune, per i camionisti, per i tassisti, per la gente comune. I camionisti di Berlusconi se ne fottono allegramente. Comunque, lei dice perché se ne fottono? No, attenzione a dire questo: perché se ne fottono i camionisti di Berlusconi? Dice i camionisti dell'iomania di Berlusconi? Beh, no, non se ne fottono. Quelli che i camionisti, secondo me, votano un sacco di camionisti. No, certamente votano, anche perché Berlusconi è riuscita ad aggregare gli abbienti e gli impauriti, e ci sarà anche qualche camionista impaurito. Che cosa vuol dire io maniaco? Vuol dire egocentrico. In questo per senso. Non dire sempre egocentrico, dici io maniaco. Io maniaco. No? Beh, cioè uno che è concentrato. Però c'è molta gente. È concentrato sul suo ombelico, se posso dire. Vabbè, ma quello chi è che non è concentrato sul proprio ombelico? Scusi, io per il Non è vero, non è vero. Io sono qua a Genova, c'è un'antica tradizione, per esempio, nella classe operaia del porto, di solidarietà e mutualismo. Vabbè, ma che ma pure Berlusconi. Pure Berlusconi potrebbe dire che fa un sacco di beneficenza, regala un sacco di soldi. No, che... quello è un altro discorso. Questa e che era cos'è? Gente che lottava e si sosteneva reciprocamente per promuovere dei diritti. Ma francamente Berlusconi promuoveva dei diritti suoi. Bah, adesso questa qua è una semplificazione. Che ti dice, Parenzo? Dico che il professore siamo entrati in politica perché se no andavamo in galera. Come, scusi? Con Falonieri l'ha detto, sì, l'avrebbero mandato in galera, sì. Eh sì, appunto. appunto, lo dice Gonfalonieri, io lo prendo per buono, eh. Ma assolutamente, ma può darsi pure che sia così, eh. Ma alla Guerra come alla Guerra, io sono per le cose molto franche, molto dirette. Uno entra in politica per questo, perché sono, lo dica apertamente, ma io sono contentissimo se uno lo dice. Certo, io apprezzo Gonfalonieri, mi è pure simpatico. Beh, un grande, è grande. Eh beh, voglio dire, uno che si chiama Fidel, no? Beh, Parenzo, dimmi. No, dico il professor Pellizzetti, sì. Peraltro, lo dico per il nostro pubblico, che vorrei avere come opinionista nel nostro programma, che è straordinario, si definisce un borghese senza classe di appartenenza. Ma cioè, questo è meraviglioso, borghese senza classe di appartenenza, cioè è di un'eleganza. Di vabbè, ma che vuol dire? Scusa, io non capisco, io che sono uomo di popolo, non capisco un cazzo, che vuol dire borghese? Sì, perché tu sei... Visto che a Parenzo piace, lo no, io sono ignorante, professore, scusi, mi dica, io sono... No, no, ma siamo tutti ignoranti, quello no. Che sapeva più di tutti era quello che sapeva di non sapere niente. No, io però in realtà sono uno che non sa niente, ma non so, ma davvero non so niente. Comunque, professor Parenzetti, che vuol dire borghese? Parenzo lo vuole sapere, cioè, anzi lo sa, io non lo so, spiegatemelo. Guardi, quella formula lì la facevamo quando degli anni 70 io ero nel movimento dei giovani imprenditori, che allora non era ancora un Rotaract, e pensavamo... a una possibile alleanza tra tutti i produttori che doveva comprendere il salario e il profitto contro la rendita, in quanto ritenevamo già negli anni 70 che il peso principale, se non vorrei scendere noiosi. Il peso della rendita era quello che soffocava questo paese. Ma in realtà Parenzo è fatto per essere per annoiare, a un certo punto porta la discussione su argomenti che rendono tutto molto noioso. No, però quello che le posso dire, quello che le posso dire è che ma Berlusconi le fa schifo, professore. Io non c'è. La borghesia contesto io non c'è. Ma Berlusconi le fa schifo a lei? Mi dica la verità, le fa abbastanza? Fisicamente o altri gusti, ma comunque sia, non so, mi fa schifo. Beh, francamente stasera, vedendo il suo video registrato, no? E mettendolo a confronto quello di 20 anni fa, ti rendi conto che ormai è diventato una mummia, una maschera da bagaglino, è impressionante. Non so se fa schifo, ma certamente fa paura. Fa paura, addirittura paura, professor Pellizzetti. Beh, certo, voglio dire, sembra la mummia. Vabbè, ho capito, ma paura Berlusconi, dai, su. Berlusconi fa, beh sì, Berlusconi fa paura perché tutto sommato Berlusconi è, il, anche se lui non lo sa, è il più grande sociologo della politica italiana. Addirittura? Sì, è riuscito ad aggregare un blocco, quello che piaceva a Gramsci, ma l'ha fatto lui, cioè ha aggregato un blocco sociale che tiene insieme, come dicevo prima, gli ambienti e gli impauriti. Ma questo è buono, no? Sì, sì, ma no, è straordinario. Perché gli ambienti, perché gli ambienti impauriti? Perché lei sociale, lui poi tra l'altro ha fatto un'altra operazione che a me personalmente fa paura, qual è? Ma che è importante, che va detta, se possiamo dirla, sì. È quello di avere a un certo punto creato un nuovo ceto sociale, che è quello che io chiamo della neoborghesia cafona, quelli del SUV parcheggiato in terza fila, no? Di cui lui è stato il modello ed è stato anche il Mosè. Ora, con questa gente qua si è costruito un blocco sociale che è minoritario nel paese, ma è maggioritario nella politica che però, vota. Scusate, ma Pellizzetti... Il dramma è che la sinistra non ha un'altra analisi, la sinistra insegue il blocco sociale di Berlusconi, però scusi, il quale blocco sociale di Berlusconi si vota Berlusconi, perché se vuoi l'originale è meglio. Però scusi Pellizzetti, quelli che votano Berlusconi sono un po' coglioni, secondo lei? No. Abbindolati, no, no, no. Un po'. Scusi, è Berlusconi che dice, quando parla da elegante, no? Penso c'è anche questa cosa che sarebbe elegante. Quando lui dice che sono quelli che votano a sinistra che sono coglioni, si ricorda che l'ha detto? Sì, l'ha detto una volta. No, sì. Lì non sono coglioni, è soltanto che oggi, dopo 20 anni di predicazione liberista, ti spiegano che devi votare secondo il tuo personale interesse a breve. Okay. Beh, ma questo non è sbagliato, non è sbagliata come cosa, non è sbagliata. Attento, invece è sbagliato. Ma ognuno vota per quello che vuole, posso Pellizzetti, un attimo che c'è il traffico. Ognuno vota per mille motivi, anche per il proprio interesse personale immediato. Qual è il problema? È uno dei motivi per cui si vota, non ci trovo niente di strano. Anzi, chi vuole ottenere il successo elettorale, anche là dovrebbe andare a pescare. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco. E ancora a casa, Emo. Una muchachita baila col ritmo bueno, non le importa mucho si no prendo sueno. Non le importa mucho si no prendo sueno. E quelli che non parlano, ma non lo dico per fare demagogia, perché siamo qua ad annoiare la gente non dicendo niente. Sai, i problemi reali spesso annoiano. Sono giusti, ma non sono reali. I problemi reali spesso annoiano. Sono la bella figura che dobbiamo fare noi. No, no, ma non è una bella figura. Guarda, io me ne andrei volentieri. No, ma non è il paese. Cioè, o tu cambi la trasmissione e fai venire qui dei saltimbanchi, Grillo, oppure noi, che siamo, come dire, in questo caso degli impiegati della parola, diciamo delle cose per rassicurarci. La Meloni è bravissima, è una donna intelligente, ma prenderà almeno quei 10.000 euro al mese, o 8.000 o 7.000. Io mi sento inutile, mi vergogno di essere venuto. Può essere noiosi. Sì, tu sei noiosissimo. Io sono noioso, fai diventare, hai ottenuto un risultato, che sono noioso anch'io e che la prima volta nella mia vita mi sono immalinconito in trasmissione. Sì, sono, però Vittorio, anche tu hai fatto della demagogia adesso. No, ma mi dispiace di farlo. Mi scuso di farlo. Se lei parla dei super pensionati. Volevo capire dal professor Pellizzetti... Sì. Quando guarda la Santanchè, cosa pensa? Quando guardo la Santanchè? Sì. Mi viene in mente Totò, perché c'è anche lei la mascella deragliata. Come la mascella deragliata? Sì, la mascella deragliata. Ma no, no. Sì, allora scusi, mi ha chiesto, io le ho risposto. No, ma... Lei c'ha questa retorica, ma io ho la mia. Ma scusi, non ho capito. Ognuna la sua. Cioè, lei guarda la mascella della Santanchè e le ricorda Totò? Sì, perché la mascella, beh, cosa, mi ricorda tante cose, per esempio una vecchia battuta, quella Avanzo, sì, di Balera, non lo so, mi vengono in mente queste cose. Avanzo di Balera, io Totò? Inguardabili. Perché inguardabile? Perché inguardabile la Santa? Che non ho capito, uno anche solo per odiarla, bisogna osservarla. No, ma che odiarla, ma che odiarla? La trovo fastidiosa, così prima sentivo la voce di Sgarbi, no? Sì, ma sì, Sgarbi, io sì, trovo inguardabili questi dannunziani, no? Questi dannunziani di seconda scelta, li trovo inguardabili, li trovo la dimostrazione che siamo un paese provinciale. La Santanchè è tutta fasulla, già a cominciare dal suo cognome, che non si chiama Santanchè, ma pare si chiami Garnero. Sì, è Garnero. Tutta fasulla. È tutta fasulla. È la tipica esponente di quella borghesia, neoborghesia cafona, che a me personalmente non piace. Però scusate, Pellizzetti... Io sono per la civiltà delle buone maniere, capisci? Beh, non è di questo mondo però lei. Ma come non è di questo ogni tanto mondo? Ci vuole la battaglia, ogni tanto bisogna tirare fuori i denti. Certamente, ma la battaglia si può fare, ma senza per esempio andare in quei talk show. Ieri mi sono trovato lì come ad Agorà, con, sì, gente che gridava, cacciara. Si può ragionare, io sto ragionando. Beh, ad Agorà non è che se c'è troppa cacciara, adesso non esageriamo. Ieri, appunto, ieri infatti mi sono stupito, c'era una cacciara era insopportabile, per cui poi è arrivata anche una, dice, dell'esercito di Silvio. Sì, esatto, sì, l'esercito di Silvio è spettacolare, però professor, lei dovrebbe fare una battaglia dovrebbe fare una battaglia con quelli dell'esercito di Silvio, una cosa stupenda. Ma no, è questa qui che mi dice a un certo punto che lei non mi toccherebbe nemmeno con un bastone, ed è francamente un erini, gli ho detto che francamente era reciproco. Cosa vuol che le dica? Allora, Briatore contro Cavalli. Ci sono gli sfigati del sabato sera e gli sfigati di ogni giorno. Roberto Cavalli è uno sfigato, geloso, rancoroso e rifatto male. Il botulino ti ha cotto il cervello. Siamo a questo livello, eh? Sì, sì, appunto. Beh, voglio dire, sono tutti appunto avanzi di Balera. Lui è allora Cavalli è anche lui francamente inguardabile. Ma Briatore è quello, com'è? Cos'è? È quello che viene giù dalla provincia Granda, sì, e fa sono tutti neoborghesia cafona. Parenzo, ci dobbiamo salutare. Neo borghesia cafone, stupendo. Ci sentiamo domani 18:30, professor Pellizzetti, ci aggiorniamo. C'è anche quello della ricetta antiporri col sangue mestruale, ma ci aggiorniamo domani. Parezzo, purtroppo, anzi, per tua fortuna non te lo faccio sentire. Io però le porgo l'altra guancia, perché io sono proprio una berlusconiana dura e pura e lo sarò fino alla fine, e anche se ci prendete in giro non importa. Sinceramente sentire le parole del 93 ti riempiono il cuore. Tutto lì. Lo capisco che non è facile da capire. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma di che stiamo parlando? Radio 24. La passione si sente.